Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Noi stasera crediamo in Dio tutti. A questo punto voi mi direte: ma tu, Benigni, tu personalmente ci credi in Dio, tu? La volevo dire, che domande. Io volevo dire, guardate, io, se Dio c'è, su di me non c'è discussione, anche perché se Dio non c'è, io non comincio proprio la serata. Sapete che si dice che Dio sta proprio nel silenzio. Stasera mi dovete lasciar fare tutto perché è una serata particolare. I 10 comandamenti non è che può essere una serata normale. Mi piacerebbe molto che uscendo voi diceste: è stata una serata bellissima, non ci ho capito niente. La prima volta Dio, i 10 comandamenti, non è che l'ha scritti, li ha detti a voce, davanti a tutti, dopo l'ha scritti. Mosè chiede a Dio il nome. Cioè gli dice già, come ma chi lo dice che Dio l'ha detto a voce? E se Dio è silenzio, perché parlarne in televisione davanti a 10 milioni di persone in estasi, in crisi mistica, di fronte a un comico che si improvvisa parroco e improvvisamente fa il grande evento televisivo dell'anno, che mette tutti d'accordo, che fa dimenticare le crisi economiche, fa dimenticare le instabilità istituzionali, fa anche dimenticare nelle motività generale che lo stesso giorno qualcuno ha preso a mitragliate a bombe a mano ammazzando 140 bambini. Ma un'altra guerra di religione, un altro Dio, sono gli infedeli, il nostro Dio è quello celebrato da Benigni. Ma in quale paese civilizzato ci sarebbe questo coro unanime di persone che lodano il servizio pubblico perché ha messo in prima serata la predica di un parroco di campagna, che altro non farebbe che raccontare quello che da secoli viene raccontato, giusto, sacrosanto, legittimo, degno della massima attenzione, ma non universalmente accettabile, come qualcosa che debba comunque essere il filo conduttore, l'asse portante delle emotività del paese. Questa mattina ho fatto una piccola indagine. Quanti di voi hanno guardato Benigni? In tutte le persone che incontravo, che conosco, che frequenta, non l'aveva guardata nessuno, me compreso. Me lo sono guardato, registrato in mattinata, ma non avendo nessuna sorpresa, quello che mi aspettavo è la solita rilettura del Benigni convertito, che fa piacere a tutti, che fa quello che sul quale ci siamo addormentati un'infinità di volte, che abbiamo preso schiaffi nella testa e nucchini dai nostri genitori perché non stavamo attenti, che ogni buon prete di paese, di parrocchia, diceva ogni giorno: ragazzi, 10 comandamenti, non bisogna rubare, non bisogna compiere atti impuri, bisogna pensare che Dio ci vuol bene, Dio buono, tutte cose sacrosante. Perché improvvisamente però questo diventa l'evento culturale più importante del nostro paese? Quanti di voi hanno visto Benigni? Soprattutto, che ne pensate? Ne siete usciti migliori? Ne siete usciti più buoni? Avete visto qualcosa di nuovo, di interessante? No, non può essere nuovo e interessante, perché ogni persona civilizzata che nasce nel nostro paese, 10 comandamenti, sente comunque, in qualunque contesto familiare sia, parlare da quando è bambino, per tutto, diciamo, l'aspetto e la fase passiva della propria vita. Poi, se abbraccia comunque l'idea di un percorso di fede, di una vita illuminata dalla religione, continua a parlarne. Quindi nulla di nuovo, nulla di esaltante, tradotto in un testo, nemmeno nulla di particolarmente originale o poetico, niente, era la predica di un buon parroco. Ma lo fa Benigni, lo fa in televisione, il direttore generale della RAI può dire: è lo spettacolo più visto di tutto l'anno, dopo le partite e dopo Sanremo. 800240024. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Lo sapete cos'è che emoziona questa frase? Dove si sente che c'è qualcosa è quando dice: Dio tuo, è quel tuo. Non so se l'avete notato. Avrebbe potuto dire e avrebbe dovuto dire: io sono il Signore Dio e basta. Sarebbe stato anche più giusto, no? Ma lui ha detto: sono il Signore Dio tuo. È quel tuo finale che lo tradisce, si è tradito. Un conto è dire a uno: a me non emoziona. Per un piffero, dico la sincera verità, con tutto il rispetto, non trovo l'emozione in questa frase. Magari qualcuno mi facesse emozionare in questa direzione. Ci sono stati poeti, ci sono stati scrittori, ci sono state persone che sanno maneggiare l'animo umano, che mi hanno emozionato su temi simili. Non mi emoziona Benigni. Probabilmente io sono oramai un'anima persa. Alex, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dunque, io una volta tanto non mi trovo d'accordo con te. Ma questo mi riempie di gioia, finalmente mi emoziono. Almeno c'è una dialettica. Ma il discorso è questo: io sono di religione ebraica e spesso mi capita di assistere alle visite all'interno della sinagoga. Sì, ma come sono? Sono noiose come erano ai miei tempi quando andavi a messa, ti annoiavi da morire, o c'è un pochino più di pathos? Dunque, no, io mi riferivo alle visite turistiche. Ah, turistiche, non come sì, credente. Sì, spiego perché questo racconto. Mm. Perché spesso ovviamente le visite turistiche vengono fatte da cristiani, incuriositi dal luogo. Certo, gli ebrei ci vanno normalmente nella pratica, non c'è bisogno, certo. Perfetto, allora sull'altare sono raffigurate le tavole della legge. Quando gran parte di quelli che vengono a visitare le guardano e le vedono, dicono: ah, ma quelle sono le tavole della legge, ma sono come le nostre. Allora, ti sembrerà assurdo, ma non è così scontato che tutti conoscano i 10 comandamenti e che tutti ne capiscano il significato. Secondo me non è stato poi così male che ci fosse qualcuno, e non condivido nemmeno quello che hai detto che è stata la predica di un buon parroco, perché spesso ha ripetuto che la Chiesa ha travisato il senso originario dei 10 comandamenti. Vabbè, è talmente palese e innegabile che tutti, chi può dire il contrario? Tutti, io ti ripeto che addirittura non è chiaro che stiamo parlando della stessa cosa tra cristiani e ebrei. Sì, ma io vado oltre, questo è già un problema di dialettica all'interno delle regioni. Io parlo in realtà in una sorta di generale rappresentazione da parte di un servizio pubblico, che è il servizio pubblico di tutti, che se vuoi fare un'informazione, vuoi dare dei concetti di esegesi biblica, se vuoi che quello che tu dici lo fai fare a qualcuno che te lo spieghi esattamente in termini concreti, con rischio anche di diventare noioso. Metterci un guitto di paese con tutto il genio, il premio Nobel, via dicendo, che prenda sé, avoca sé. Io non credo mai che un rabbino farebbe raccontare a Benigni il senso profondo della Torah. Direbbe: no, scusa, lo faccio io, è una vita che ci studio. Sicuramente sì, però il risultato che noi abbiamo ottenuto di audience così alta parla da solo. Evidentemente nella nazione che si trova come sta, c'è bisogno di sentirsi ricordare alcuni. Sì, forse sì. E allora ha preso un buon cappellano con il guizzo, l'estro, la notorietà. Le istituzioni, tu sai meglio di me, che hanno perso credibilità. Sentirselo dire da un mangiapreti. Ma mangiapreti ormai Benigni non lo è più, ma lo sai da quanto? Benigni ha abbandonato. Ho capito, però la sua immagine è quella. No, non più, ormai Benigni è un convertito, ma stai scherzando? Benigni ormai, magari Benigni ai tempi di Berlinguer ti voglio bene, o del tempo del Papocchio, non è più quello. Benigni ormai da quando ha letto il Paradiso e si è lasciato impregnare di luce divina, Benigni è tutt'altra cosa. Ma mi sta bene, io non sono un mangiapreti, non sono assolutamente, non ho assolutamente una visione laicistica della vita. A me piace, appassiona tutto ciò che è trascendenza. Non capisco perché debba passare come un'operazione culturale da parte del servizio pubblico, che dovrebbe comunque far passare un'idea generale e trasversale, orizzontale. In presente la predica diventa la cosa più importante a televisione, quello mi domando. Fermo un attimo, Alex, resta se vuoi in ascolto. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Esperto di marketing, comunicazione strategica, ha scritto molti libri, l'ultimo è Leader come Papa Francesco, perché il Papa è un genio del marketing, edizione PM. Rientra nell'operazione del marketing ecclesiale anche l'operazione Benigni, secondo te? No, questa è un'operazione di marketing laico, cioè è la nuova versione 3.0 della laicità italiana, che ormai è completamente diventata cattolica, cioè è l'appendice, la punta di diamante del cattocomunismo italiano. Questo è quello che io vedo. Quindi esattamente, cioè, l'operazione è talmente occultamente rocambolesca che in realtà ha nulla a che fare, non c'è più il controllo della santa sede su quello che dice Benigni. Se ci avrebbe messo qualche emulo di padre Mariano, ci avrebbe messo qualche prete, ci avrebbe messo qualcuno del genere a spiegare la Bibbia. Ci mettono Benigni perché nel totale horror vacui di carenza di simboli, di valori, di porte d'accesso al sapere laico, si rimpossessano, come è già successo nella storia, dei simboli confessionali e li fanno loro, mettono una pecetta, siamo buoni. Ma addirittura, cioè, fare in prima serata Benigni che fa la lode della castità mi sembra qualcosa di totalmente folle. Ma questo è il futuro che ci aspetta. Noi abbiamo un governo che è così. Abbiamo è già iniziata questa trasformazione da tempo, da quando nel principale partito di sinistra, che non nomino per non fargli pubblicità, c'è stato questo passaggio al cattocomunismo. Allora, da questo punto di vista, Benigni non fa altro che riportare delle ovvietà, delle banalità che sono il senso comune, non produce nulla di nuovo, è l'orgia dell'ovvio e dello scontato. A me non fa ridere da molto tempo, però poi insomma le sue performance sono spesso ridotte all'analisi letterale parola per parola. Non so se ricordate gli esercizi che si facevano nella vecchia scuola italiana con i bambini, no? Cioè si prende una parola per volta e la si analisi analizza. Grammaticale. Esatto. Cioè, allora, fermo un attimo, sentiamo Laura, qualcuno, sennò sembra che noi abbiamo fatto la congiura dei dissidenti. Laura, buongiorno. Buongiorno, volevo dire che mi è piaciuto molto Benigni e l'ho guardato con attenzione, non solo perché mi piace, ma ho apprezzato molto il fatto che non abbia improvvisato nulla, ma si sia documentato come fa ogni volta. Vabbè, l'altra cosa è anche pagato per questo, cioè improvvisasse cioè è il suo mestiere. Mi perdoni, ma tante persone sono pagate e fanno delle figure meschine, invece lui ha approfondito l'argomento. Beh, guardi, non è che una prima serata su Rai 1 possa essere improvvisata, mi scusi, no, questo è proprio un dettaglio tecnico, non è che va lì, dice oh sai, vado lì, gli dico gli 10 comandamenti, ci starà lavorando da mesi se non da anni su questa cosa, è un lavoro serio, concreto. Però guardi, mi perdoni, forse non mi sono spiegata bene. Questo voglio dire, una persona che si chiami Benigni o si chiami con un altro nome, che vada su un palco, pagato sicuramente perché... Giustamente, ma chi fa un lavoro? Ma portato ci dà un lavoro di qualità, ci propone uno spettacolo dov'è di qualità. Ma dov'è la qualità? La qualità è intanto che se riesci ad attrarre tante persone contemporaneamente, perché ho sentito i risultati sì, dello share, vuol dire che c'è, diciamo, bisogna tener conto di questo di questo testo praticamente. Un'altra cosa è che comunque... Ma mi spiega perché, signora, perché questi 10 milioni di persone poi non vanno a messa, non vanno in chiesa, non operano bene, non seguono secondo giustizia, un paese radicalmente con una sorta di viscerale e genetica tendenza alla paraculaggine, all'intrallazzo. Perché non vedo realizzato poi questo spirito e questo afflato sacramentale dentro poi nei comportamenti? Lo vedo soltanto in televisione, nei numeri dell'Auditel. Esattamente quello che vede lei. Proprio per questo mi è piaciuto il modo con cui ha posto l'argomento, perché lo ha rinnovato in qualche modo, lo ripropone in modo diverso. Non è il sacerdote che parla, non è il papa che lo deve fare quasi per dovere, non è il cardinale che poi magari, tra virgolette, con grande rispetto lo dico, è corrotto. Allora, ci sono tanti fatti storici che parlano al negativo per la Chiesa, ma noi non dobbiamo guardare la Chiesa, dobbiamo guardare... Ma qua non c'entra la Chiesa, i comandamenti trascendono, sono ancora appunto, oltre, sono prima. Diceva il nostro amico Alex, i comandamenti è una regola, se vogliamo, scritta su tavole della legge che valgono per gli uomini dall'inizio di quando l'uomo comincia a considerare una sua storia legata comunque a un principio di trascendenza, secondo, diciamo, la tradizione che noi stiamo vivendo. Quindi vanno oltre, i primi 10 comandamenti c'erano quando ancora la Chiesa non c'era. Melog. Cronache meridiane. Non desiderare la donna d'altri. Ecco, vedete, arrivati al 9° comandamento, oramai Dio e Mosè sono entrati in confidenza, cominciano a parlare di donne. Vedete qui. No. Siamo alla fine. Allora Mosè, non c'è male. Adesso, intanto vi dico che questo 9° comandamento però bisogna leggerlo insieme al 10°, cioè non desiderare la roba d'altri, perché come abbiamo detto ieri, questi ultimi 2 comandamenti in origine erano uno solo, la Chiesa li ha divisi perché appunto non considerando un comandamento a sé stante non ti farai idolo né immagine, alla fine ne mancava uno e quindi per arrivare a 10 ha diviso in 2 l'ultimo comandamento. Ecco, io vi leggo, diciamo, la versione dell'Esodo. Ecco. Vabbè, Dupalle, ragazzi, è una cosa terribile. Ma uno può fare una riflessione sul fatto che oggi suoni un po' male dire la donna ad altri. Una donna appartiene a una persona, la donna avrà una sua individualità, potrà decidere con chi andare, potrà decidere anche di commettere adulterio, di lasciare la famiglia. voglia di spezzare amori interminabili, potrà decidere anche questo, perché poi il comandamento è soltanto rivolto all'uomo: tu uomo non desiderare la donna ad altri, e per la donna non ci sono comandamenti. Francesca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io la ringrazio molto perché finalmente lei è l'unica persona che è rimasto con un po' di buon senso. Ma non è vero, un po' di amici che ancora la pensano così, qualcuno no, anche è vero, qua presente. Ma neanche Gramellini stamattina sulla stampa ha fatto uno... Vabbè, che vuol dire? Vabbè, Gramellini ha il suo modo di pensare, ognuno pensa a modo suo. Certamente, io sono completamente d'accordo con lei. È stato sfruttato questo personaggio perché in questo periodo abbiamo bisogno di qualche cosa. Ma lei si sente la donna di qualcuno che nessuno può desiderare? No. Vede, una persona modernamente aperta che vive il suo tempo si ribella a dire io sono la donna d'altri. Non esiste, io sono una persona. Ma non esiste neppure questa necessità di rivolgersi a qualcuno dall'esterno. Ma perché non guardiamo dentro? In effetti l'unica cosa che capisco è che noi siamo quello che vogliamo essere, perché dobbiamo appoggiarci a queste cose così assurde? Sì, ma è molto più semplice. Dico, la televisione non mi deve salvare l'anima. La televisione, se vuole, mi deve far divertire, deve informarmi e aprirmi un occhio sul mondo dove non arriva il mio sguardo. Sabina, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io se cambio leggermente argomento, io sono un'insegnante, ho 36 anni e non le dico la strada che ho fatto per arrivare ad esserlo, sì, in Italia. E sinceramente spesso mi sono sentita dire dai ragazzi, magari gli insegnanti leggessero Dante come fa Benigni. Lei, giustamente sei un po' incazzata lei. Sì, mi fa molto soffrire, le dico la verità, io quando leggo Dante, così come quando leggo Pascoli o Saba, io trovo veramente il senso profondo di quello che faccio, cercando di comunicare loro, insegnargli la bellezza della poesia con tutto ciò che questo comporta. E beh, non credo che i ragazzi non possono capire se gli si viene proposto questo modello di spettacolarizzazione, anche a volte io vorrei usare una parola forte, di ridicolizzazione della poesia. Sia paragonata al nostro mondo contemporaneo, la politica, no? Questi Berlusconi sempre di mezzo, poi sviliscono invece il lavoro che noi facciamo, e lo facciamo cercando veramente di mettere. Lei dice giustamente: una vita che studio sì, critica sì, dantesca, che cerco di capire, di entrare dentro in qualcosa su cui tutti hanno detto tutto, ma c'è sempre qualcosa da dire. Arriva un guitto, dice quattro cavalli, lo legge come lo leggerebbe un maestro di scuola elementare di Fucecchio, giusto, ma con pieno rispetto, capito? E improvvisamente diventa la chiave di lettura della Divina Commedia, perché l'ha letto Benigni. Bruno Ballardini, intanto con questo primo parterre che ti ho messo a disposizione, cosa hai da dire? Ma va benissimo, questo intervento mi è piaciuto moltissimo perché tocca un punto molto importante, cioè qui stiamo andando verso la banalizzazione di tutto. Un insegnante non è necessariamente una persona che deve banalizzare, quindi finisce per essere noiosa più di un comico, no? Ma non possiamo parametrare tutto quanto alla comicità, perché adesso ultimamente i commenti politici vengono fatti attraverso la satira. Siamo abituati a dei corsivisti che sono soltanto dei guitti. Alcuni di questi guitti vanno perfino diciamo in Parlamento, arrivano quasi al Parlamento. Visto che ci tenete tanto alla comicità, vi è piaciuto Benigni, bene, fate penitenza. Fatelo Papa a questo punto. Fatelo Papa, però prima pentitevi di questo grande peccato, di esservi ridotti a ridere di banalità. Andatevi a vedere su YouTube George Carlin nello spettacolo You Are All Diseased del 1999, cioè Siete Tutti Malati, in cui parla di Dio, e fate un confronto con Benigni, vedrete veramente, capirete qual è il valore di Benigni. Ma è quello che volevo dire prima, quando dicevo esistono persone che sanno toccare il pathos e le corde profonde e ti fanno riflettere, parlando anche di Dio, senza poi necessariamente farsi portatori di un messaggio dogmatico. Benigni non fa questo. Benigni è la lettura di un parco portata a livello di spettacolo nazionale. Perché? Perché è strapompata la cosa. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Due cose, no? Che l'ascoltatrice che ha telefonato prima esprime perfettamente il conformismo di questo spettacolo, no? Questo qui istituzionalizza ogni Natale i sacri testi italiani, diventando peraltro molto più noioso di quanto fosse una volta. Io mi sono addormentato profondamente. Sì, ma chi lo dice? Si rende conto che bestemmia? Io dico onestamente, me lo sono visto questa mattina nello studiolo in streaming la registrazione. Ma annoiava, ma pensi che se me lo guardavo a casa sul divano, russavo dopo 10 minuti. Perché la gente va in estasi? Ma così è normale. Come mi annoio se vado a messa, ahimè, è il mio limite. Mi annoio dopo un po', mi annoio, non riesco a toccare nulla dentro. Riesco a entrarci da solo in chiesa magari. Ma le posso aggiungere una cosa? Che prima avevo ascoltato 20 minuti Sgarbi parlare di problemi dell'arte, di incuria, l'avrei sentito per un'ora e mezzo. Perché? Perché sa usare la dialetta, poi ha un taglio, se uno vuole, criticabile, ma personale. È lui che parla di quello, è il suo punto di vista. Uno può dire mi fa schifo il suo punto di vista, ma lo ascolti. Perché una mediazione forte, con le Benigni non è una mediazione forte, è una non mediazione, è una rilettura, è il riassunto, è il bignami della cultura, della storia dell'umanità riletta per il pubblico di Rai 1. E mi sta bene anche questo, se volete, ma non possiamo dire che è un grande momento culturale, non possiamo dire che il paese dà una grande dimostrazione perché 10 milioni guardano i 10 comandamenti di Benigni. Io mi spaventerei. Bruno Ballardini. Beh, ci siamo. Voglio dire, io vorrei lanciare una sfida a Benigni. Mi piacerebbe che arrivasse a semplificare la fisica quantistica oppure il Corano, perché di questi tempi è più attuale il Corano. Sarebbe interessante che si cimentasse con questo testo. Grazie, grazie Bruno Ballardini, grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, grazie a Benigni che mi ha dato l'occasione di riempire questi 20 minuti. A domani.